Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città del Capo. Siamo rientrati noi, i pazzi forsennati della notte di domenica notte di Radio Città del Capo, 451 frammenti sonori, ancora in compagnia solo di un elemento, e dunque io mando chiaramente un caro saluto e un abbraccio a Max Macchia, che non sarà in studio, dunque sarò soltanto io. Elisio Scarpa vi saluta per questa nottata bolognese, una nottata che sembra essere abbastanza particolare, bella, anche abbastanza fresca, un caldo accettabile, molto raro in quel di Bologna, ma stasera con un po' di vento e anche la luna che sembra sia ai massimi livelli in questa giornata, dunque luna piena, i lupi e qualt'altro si muoverà nella città bolognese. E noi stasera, con il concerto di Vasco che incombe a Bologna, dunque tutta la zona che purtroppo io abito, zona stadio, è praticamente imballata e dunque strapiena di gente, e noi invece andiamo in alternativa in una trasmissione sempre come al solito ai confini dell'impero, una trasmissione che sarà sviluppata su un tema che abbiamo spesso, almeno nell'ultimo anno, incrociato attraverso dei singoli progetti, cioè quello del Metal Drone, che appunto abbiamo scovato in alcune trasmissioni, intrecciato e quasi ci siamo imbattuti in alcuni progetti, in particolare a Sanò, che è l'autore, Stefano Malli, l'autore più conosciuto nel territorio del metal drone più sperimentale. Stasera abbiamo deciso di costruire una puntata dedicata interamente a questo genere, a questa nuova direzione musicale che si è sviluppata in questi ultimi anni, ma che in realtà ricordo una trasmissione di circa credo un mese fa condotta insieme a Max, proprio dove abbiamo incontrato anche un precursore degli anni 90 di questo possibile percorso sonoro, che in realtà poi si è realmente sviluppato attraverso musicisti, autori, progetti che uscivano dal metal, da metal anche abbastanza pesante, da black metal, metal doom metal e altri generi e sottogeneri del metal che noi oggettivamente non amiamo in maniera particolare, ma molti autori appunto si sono addentrati dentro dei territori più sperimentali, più d'avanguardia, dunque aprendo un territorio assolutamente imprevedibile all'interno del genere metal e attraversando addirittura scenari sonori che si avvicinano moltissimo alle avanguardie più sperimentali, incrociando poi anche vari altri generi, incrociando in alcuni casi addirittura il jazz, l'elettronica cosmica e ovviamente l'elettronica più rumorista, che si avvicina di più, diciamo, alle frequenze sonore del metal. Tutti questi autori e progetti che si sono succeduti in questi ultimi anni, abbiamo deciso stasera di costruire appunto una trasmissione che possa dare un primo impatto, una prima dimensione musicale a questa nuova direzione. Ovviamente non siamo esaustivi, ci sono ancora molti progetti, altri autori che non abbiamo ancora incrociato, comunque che non rientravano in maniera più adatta a questa puntata di stasera, e dunque stasera abbiamo deciso di chiamarla Schegge di Metal Drone, e abbiamo deciso anche di aprire con un progetto molto recente, in realtà proprio creato tra 2007 e 2008 in quel di Montreal, dunque in Canada. Si tratta del gruppo Menes Ruin, che esce proprio dal black metal, ma appunto quando è nato questo progetto, che è un duo costituito da Genevieve Bellieu e Stéphane Delamoff, si sono addentrati dentro appunto pienamente questa nuova direzione del metal drone, mischiando elementi chiaramente metal ma distorcendo moltissimo le chitarre attraverso effetti e feedback e utilizzando anche dimensioni prettamente elettroniche, soprattutto in fase di post-produzione, e l'aspetto dronico, che è appunto l'elemento da flusso rumoristico, connesso soprattutto all'utilizzazione di chitarre elettriche, di batterie molto pesanti, molto scure, e anche attraversando dimensioni dark e ambient che ritroveremo soprattutto nei progetti successivi. Incontreremo anche progetti che si erano mossi inizialmente nel post rock, che poi si sono addentrati verso questo universo che viene rappresentato in maniera assolutamente geniale soprattutto dal progetto di Sanò, ma anche di Boris, che troveremo chiaramente nel corso della puntata. È un modo chiaramente anche per tributare una dimensione sonora, un percorso musicale che è effettivamente estremamente interessante. Abbiamo avuto anche modo di vederlo dal vivo a Bologna un paio di anni fa ed effettivamente l'effetto sonoro, l'impatto è indubbiamente molto molto aperto e ricco di sperimentazione e anche di impatto sonoro. Andiamoci dunque a sentire il primo autore dentro il percorso di stasera di Metal Drone. Apriamo dunque con Menace Ruin, dal disco uscito nel 2010, Union of Irreconcilables, e speriamo appunto che questo percorso, seppur scuro, alle volte inquietante, incrociando anche qualche autore che ha fatto parte di colonne sonore di film horror, spesso succede anche questo soprattutto nel mondo metal e anche nel mondo metal drone, e apriremo un percorso che speriamo possa essere intrigante e interessante. Apriamo dunque con Menace Ruin, schegge di Metal Drone. Ed eccoci rientrati, abbiamo sfumato un brano che oggettivamente era piuttosto lungo, essendo poi una caratteristica abbastanza comune in molti progetti che troveremo stasera all'interno del Metal Drone, e dunque per non togliere spazio a molti autori dobbiamo anche purtroppo in alcuni casi sfumare delle tracce che ovviamente essendo molto droniche sono anche estremamente lunghe in termini proprio di minutaggio. Comunque il brano, splendido lavoro questo dei Menace Ruin, uscito nel 2010, ricordiamo ancora Union of Irreconcilables. Abbiamo ascoltato proprio la traccia d'apertura del disco, un lavoro molto interessante di una formazione che si muove su un'atmosfera molto dark, molto scura, ma con delle chiare connotazioni ambientali, ed è un po' l'aspetto appunto del metal drone, in questo caso Geneviève Belieu e Stéphane Delamoff, appunto musicisti canadesi, aprono il percorso sonoro di stasera, che troverà varie terre proprio geograficamente date in tutto il mondo che stanno percorrendo questa strada del metal drone. E il metal drone, per coloro che volessero proprio avere una definizione, anche una storia di questo percorso sonoro che molti, almeno molti critici, individuano soprattutto in Sanò come capostipite, come apripista di questo nuovo territorio musicale, appunto è legato questo termine drone metal all'idea appunto di droning sound. Droning sound in realtà, appunto, in italiano la definizione è suono ronzante, drone, vibrazione, ronzio, che sicuramente dà l'idea molto bene della peculiarità sperimentale di questo percorso sonoro. Drone appunto è anche definito come bordone, cioè l'effetto armonico di accompagnamento in cui una nota e un accordo sono suonati in modo continuo per l'intera composizione o per buona parte. Sicuramente è un elemento interessante dentro l'idea anche del metal, dentro il suono del metal, e nel metal drone la voce, in alcuni casi l'abbiamo ascoltata anche nei Menace Ruin, che è comparsa diciamo a metà del percorso musicale, di solito è affidata appunto come definizione a uno screamer. I testi spesso sono molto negativi, oppressive, e le tematiche sono indubbiamente molto astratte. Sonorità plumbe molto basse a livello di frequenze, decadenti, in alcuni casi la parte ritmica o è assente o è molto cadenzata, marziale, oppressiva, e questo è chiaro che riconduce anche un immaginario molto scuro, molto inquietante, legato spesso, ad esempio, non a caso il cinema horror, soprattutto degli ultimi anni, ha utilizzato, in passato lo utilizzava spesso e molto spesso il metal, ma anche in questi ultimi anni avremo poi un caso proprio particolare che abbiamo anche citato in una vecchia puntata. Gli ultimi horror utilizzano molto, ad esempio, brani legati al metal drone, e ci è capitato anche di ascoltare delle colonne sonore proprio di Sanò, di Boris e di altri autori. In questo senso sicuramente l'aspetto ambientale, ad esempio, all'interno del percorso del metal drone è molto presente, l'abbiamo ascoltato anche nel brano poc'anzi trasmesso e mandato in onda. E dentro questa collocazione andiamo, e dopo aver dato un minimo di definizione anche appunto del termine metal drone, ci andiamo a presentare una formazione che sicuramente è interessante perché mischia anche elementi rock e post rock dentro il loro percorso, pur uscendo anche essi da un'estrazione nettamente metal. Si tratta della formazione Horseback, formazione americana, che è un vero e proprio progetto post metal di Jenks Miller, che appunto precedentemente con altri progetti si muoveva in un territorio completamente metallico, senza obiettivi sperimentali e senza dimensioni né ambientali né post rock né minimaliste, che troveremo anche questo aspetto molto presente nel drone metal, e appunto dopo questa esperienza personale ha costruito il progetto Horseback, dove sono transitati vari autori, vari musicisti, ma lui rimane, diciamo, il punto di riferimento di questo progetto nato tra il 2009 e il 2010. Il primo lavoro che ha messo in campo Jax Miller attraverso gli Horseback si muoveva ancora con forti richiami metallari, usiamo anche questo termine che è molto colloquiale, molto utilizzato, e invece successivamente nei dischi successivi, e in particolare proprio nel disco che andremo a sentire, uscito un anno fa, Half Blood, uscito per la Relapse Records, invece si spinge sempre di più dentro il territorio drone, con elementi sicuramente più marcatamente connessi a questo tipo di atmosfere. Ma il brano in particolare che abbiamo selezionato risente molto anche di una dimensione post rock, e con delle coloriture che sono sicuramente molto molto originali dentro lo scenario del metal drone, e per quello l'abbiamo selezionato. Dunque l'aspetto dronico emerge, l'aspetto metal lo sentirete soprattutto nell'utilizzazione di queste voci roche inquietanti, quasi dall'oltretomba. Spesso noi scherziamo, anche perché il nostro approccio anche a questi aspetti esoterici o mistici, in alcuni casi addirittura diavoleschi, usiamo questo termine, ci fanno abbastanza ridere, perché ci giochiamo sopra, ma molti, devo dire, lo prendono abbastanza sul serio. Noi invece non abbiamo chiaramente questo spirito e andiamo a pescare ed ascoltare questo brano sicuramente molto interessante di Horseback, che aprirà un altro pertugio dentro questa sorta di coltre oscura e inquietante della dimensione metal, dell'immaginario metal, dell'iconografia metal in particolare, anche ovviamente attraverserà il percorso di stasera di Metal Drone. Ascoltiamoci dunque Horseback dall'album, lo ricordiamo ancora, Half Blood, uscito nel 2012. Like wrestling. siamo ritornati in diretta, splendido questo lavoro, sicuramente anomalo per certi versi anche all'interno di 451 frammenti sonori, è un brano sicuramente interessante sia nella parte finale sia nello sviluppo, con chiari riferimenti post rock ma dimensioni legate ovviamente al metal, e anche questa è una coloritura di elementi anche differenti dentro il metal drone. Questo è un brano anche per certi versi più d'impatto, più orecchiabile dentro un percorso sonoro di stasera che sarà molto dentro questi percorsi dronici lunghi, inquietanti, scuri e oppressivi. Dunque abbiamo anche selezionato una traccia che potesse dare un altro quadro, un altro colore sonoro al percorso di questa serata, attraverso appunto a Horseback, che come sentiamo ancora in sottofondo ha delle tracce invece molto più droniche, anche molto più elettroniche dentro il percorso sonoro del disco, che ricordiamo ancora, di Horseback Half Blood, uscito nel 2012. E adesso ci avviamo ovviamente dentro il percorso Metal Drone verso l'autore, il progetto più rappresentativo per molti, il capostipite, l'elemento trainante di questo nuovo genere o catalogazione di dimensione sonora nuova che nasce dal metal. Si tratta chiaramente, come avevo già annunciato in precedenza, del progetto Sanò, in particolare in questo disco che abbiamo selezionato insieme a un altro autore che si muove all'interno del metal drone ma anche dentro, in particolare al noise, cioè Boris. Sanò, ricordiamo ancora, un progetto che è già passato in alcune occasioni, diverse volte direi, all'interno di puntate di 451 frammenti sonori. Sanò è formato dai chitarristi Stefano Malley e Greg Anderson. Stefano Malley sicuramente l'elemento più eclettico del duo, anche perché porta avanti altri progetti con altri autori, altre formazioni, altre sperimentazioni. Un artista che esce dal metal ma si è portato sempre di più fin dall'inizio, già nei primi passi, verso territori molto più sperimentali legati alla dimensione dronica, verso l'ambient, il dark ambient, ma anche attraversato dal noise, dall'aspetto anche di commistione molto stretta con l'elemento più elettronico rumorista, ma ci sono anche elementi minimalisti e dimensioni sonore veramente apertissime che hanno appunto contrassegnato l'opera fino ad ora del progetto Sanò, con ottimi e splendidi risultati. Oltretutto abbiamo avuto anche la possibilità, l'occasione di vederlo dal vivo, con un impatto sicuramente molto molto interessante. Diversi sono i dischi che sono stati prodotti già dalla metà degli anni 90, diciamo più verso la fine degli anni 90 fino ai giorni nostri. Sono innumerevoli i dischi usciti del progetto Sanò. Abbiamo già passato diversi lavori e stasera però abbiamo deciso di prendere un disco uscito nel 2006 intitolato Altar, costruito proprio insieme a Boris della Southern Lord Records, un splendido lavoro molto rappresentativo del genere metal drone, e in particolare anche l'abbiamo diciamo utilizzato anche perché è stato una grande sorpresa nell'ascoltare dentro la colonna sonora di questo film indiscutibilmente molto interessante, uno dei film horror più interessanti di questi ultimi anni, Sinister, uscito praticamente realizzato da Scott Derrickson proprio tra il 2012 e il 2013, ed è stato sicuramente bello ascoltare questo brano, anche sorprendente, ma anche per far capire come i lavori di O'Malley e Anderson sono stati assolutamente assorbiti dentro la colonna sonora, che oltretutto vede la presenza anche di formazioni che escono dal metal drone come Birds of Canada e altri autori sicuramente interessanti e sperimentali. Sanò ormai è più che affermato sulla scena della sperimentazione dentro il la dimensione metal drone, sicuramente questo è un elemento più che valido per rappresentarlo. Adesso direi che ci manca solo di ascoltarlo, andrà a chiudere la prima parte della trasmissione. Noi ci ritroveremo sempre su queste frequenze dopo il GR di Radio Popolare Network e ovviamente ripartiremo con un percorso molto più scuro e molto più dronico nella seconda parte, con altri autori semi, qualcuno conosciuto, qualcuno semi sconosciuto, qualcuno semi conosciuto, così facciamo un giochino anche di presentazione. Andiamoci a sentire dunque questo splendido lavoro, molto molto bello e anche molto affascinante all'interno appunto della scena filmica che, in cui è stato collocato, Sanò e Boris da Alter, album uscito nel 2006. Buon ascolto e a risentirci dopo Radio Popolare Network.